Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno o buonasera, se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore. Molti di voi ricorderanno che il 14 luglio 2008 abbiamo dato inizio ad una mini inchiesta, ma comunque abbastanza corposa perché abbiamo dedicato 10 puntate, ad una vicenda antica nel tempo ma sempre più attuale, vale a dire le migliaia di morti che ci sono state in Italia per emotrasfusioni da sangue infetto. Una storia che data circa 1980, anno più, anno in meno, allorché dall'America cominciò a propagarsi questa serie di morti dovute a trasfusioni di sangue di emoderivati infetti. In America il fatto era dovuto a sangue che veniva preso da persone con serie malattie che poi sono state appunto anche trasmesse a chi di quel sangue doveva vivere. Ci sono moltissimi imputati in un processo che non ha mai fine, un processo che inizialmente aveva sede a Trento, poi fu spostato a Napoli. Un processo che vede indagati sicuramente eccellenti, come ad esempio Duilio Poggiolini, ex Gran Commis di Stato al Ministero della Salute, ma vede anche moltissime imprese farmaceutiche sul banco degli imputati. È chiaro che moltissimi hanno interesse a che quel processo non si faccia. Sono molte le associazioni che si sono costituite parte civile, altre sono quelle che in un percorso che non discutiamo hanno magari anche accettato di avere dei rimborsi anziché andare di fronte ad un procedimento penale per le vittime che avevano nelle proprie famiglie. Fatto sta che le morti continuano, è fatto sta che le persone sono ancora ammalate, è fatto sta soprattutto che questo processo, che sembra sempre lì per partire, non parte mai. La nostra storia iniziò con il racconto di un ragazzo che ci scrisse. Questo ragazzo si chiama Luca Lucente, è un 32enne di Taranto che oggi ho il piacere di avere con me in studio. Buongiorno Luca. Buongiorno. Innanzitutto ti chiedo come stai? È difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che continuiamo a lottare. Ecco, questo è importante. Noi continuiamo a lottare accanto a te, accanto alle vittime di questo vero e proprio abuso alla salute e alla dignità dell'uomo. Seconda domanda che ti faccio. Processo di Napoli, hai qualche notizia tu? Purtroppo il processo va un po' a rilento, però dobbiamo dire che noi dobbiamo cercare di mantenere sempre la fiducia nei confronti della magistratura, però siamo un bivio decisivo. Si deve decidere non sulle sorti di noi persone che attendiamo giustizia, ma proprio sulle sorti della dignità di questo paese. Questo paese deve avere il coraggio di decidere da che parte stare. Assolutamente d'accordo con te, dalla parte della legalità. Ecco, io dicevo una storia vecchia, ma una storia attualissima. Vuoi spiegare anche magari con degli aneddoti che ti sono accaduti a colloquio anche con alcuni miei colleghi, che cosa ti è stato risposto quando tu cercavi di portare avanti la tua causa anche singolarmente? Io diciamo che faccio questa battaglia non per me solamente, per tutte le persone, perché credo che la dignità di un paese si misuri proprio da questo. E trovo assurde le risposte che mi sono state date da alcuni giornalisti. Mi è stato risposto che non fa più notizia, come se la morte di una persona dovesse fare notizia. Mi è stato risposto inizialmente un grande interesse da giornalisti che si sono proposti, ma appena hanno capito che si andava a toccare case farmaceutiche, delle vere e proprie, tra virgolette, lobby, si sono spaventate queste persone. Ecco, io ricordo che fino al 14 luglio 2008, purtroppo non ho un aggiornamento più recente, erano circa 60.000 le persone che in Italia avevano contratto malattie in seguito a trasfusioni. Ma tantissime di queste, scusami, sono decedute. Esatto, io ricordo quindi... infatti che a quella data i morti erano 2.560, sì. E gli infettati da emoderivati dall'80 all'aprile del 2008 erano circa 4.000. Oggi tu sei in grado di aggiornare questo tragico bilancio? In realtà ce ne sarebbero tantissimi altri, solo che molte persone non hanno denunciato oppure hanno, diciamo, hanno ritardato nel fare la denuncia e altro. Si sono rimasti scoraggiati anche dalla lunghezza dei risarcimenti o dal fatto che comunque avviare delle spese legali ha comunque dei costi che addirittura noi dobbiamo anticipare nella speranza un giorno di essere risarciti. Ecco Luca, volevo chiederti questo qui. Tu ti sei rappresentato a Napoli singolarmente o tramite delle associazioni? Noi ci siamo presentati tramite delle associazioni, perché il nostro problema è duplice. Uno è ottenere la giustizia, secondo è ottenere il risarcimento. Questi due problemi viaggiano in realtà parallelamente, perché noi non vogliamo ottenere solamente, parlo per me, un risarcimento, anche se doppio, triplo di quello che mi spetta. Senza avere giustizia non accetterò mai neanche una lira, perché il primo passo, perché noi dobbiamo accettare qualunque risarcimento, è quello di ottenere prima la giustizia. Quindi che prima vengano individuati i colpevoli, però, i responsabili. Naturalmente tempo ormai ne è passato troppo anche per ottenere un risarcimento che è il minimo, visto che questi soldi ci servono adesso, che noi stiamo affrontando delle cure che sono in molti casi costosissime, oppure rinunciamo a fare dei viaggi in altri paesi dove potremmo avere un'assistenza migliore. Ecco, io ricordo ai nostri radioascoltatori che, al di là del fatto che sono moltissimi i paesi coinvolti, analoghi processi si stanno svolgendo altrove, in giro per il mondo, però ricordo che il processo spostato a Napoli per competenza territoriale nel maggio del 2005 i PM di Napoli avevano chiesto l'archiviazione per i due magistrati napoletani che stavano seguendo l'inchiesta. La stessa era da archiviare per mancanza di nesso di causa, vale a dire non sarebbe stato possibile dimostrare che l'infezione era stata o era attribuibile ad uno dei prodotti farmaceutici o comunque alle trasfusioni che erano state effettuate. Tu prima parlavi di dignità. La dignità che deve essere di un popolo, quindi dell'intera Italia, ed è per questo che noi non abbiamo paura di seguire la tua vicenda e quella anche di chi come te si trova in questa situazione. Anzi, dico subito ai radioascoltatori che proseguiremo nei prossimi giorni con questo dialogo, coinvolgendo, come facemmo nel luglio 2008, altri protagonisti. Torniamo alla dignità. A seguito della nostra inchiesta la scorsa estate, mi raccontavi fuori onda che sei stato avvicinato dalla Regione Puglia. Che cosa ti hanno proposto? No, singolarmente in realtà non voglio niente per me, certo. Questo è una cosa molto importante, cioè non voglio trattamenti di favore o altro, però voglio un dialogo con le istituzioni. A oggi, ad esempio, è stata fatta una legge che dovrebbe tutelarci, ma manca dei decreti attuativi. Oh, veniamo a questo, okay. A questo, a tutela che voi dovreste avere, la mancanza dei decreti attuativi. Contatti con il Ministero della Salute, con il sottosegretario Francesca Martini, ad esempio, ne avete avuti oppure no? Io personalmente mai, non so neanche se, cioè per me la senatrice non so neanche se esista. Comunque questo non è importante che si senta tanto con me quanto, certo, con le associazioni, che devono far valere i nostri diritti. Noi chiediamo, ad esempio, che ci era stato promesso, noi non possiamo vivere di promesse perché il tempo per noi è tiranno e quindi naturalmente le promesse che fanno i politici sono come l'aria fritta, durano, Battiato dice, per il tempo dell'estate, noi manco quello. E quindi il problema è questo, che noi delle promesse dei politici di qualunque colore politico, non ce ne facciamo niente. Ma i decreti attuativi che cosa dovrebbero portare in più per voi? I decreti attuativi sono uno strumento grazie al quale i nostri legali devono poi avviare nuovamente un processo burocratico, giuridico, che è inutile, perché noi siamo stati visitati da commissioni militari, da chiunque, abbiamo portato malloppi di perizie che purtroppo certificano la nostra condizione, e quindi questi decreti devono in realtà tutelare le persone che si trovano in queste condizioni. Invece il paradosso che invece discriminano, perché il 90% delle persone che hanno fatto causa al ministero verrebbero escluse con questi decreti, che sono stati fatti, diciamolo francamente, male. Qualcuno potrebbe avere il sospetto che sono state fatte male apposta, perché le cifre del risarcimento sono tante, quindi lo Stato elevate. Soldi non ne ha, e quindi qualcuno potrebbe avere questo dubbio, che anch'io ho, però. Ecco, io vorrei cercare di sintetizzare quello che è stato la chiacchierata oggi odierna con Luca Lucente. Voglia di giustizia, non voglia di risarcimento. Ritardi burocratici che ancora oggi portano all'assenza di decreti attuativi che dovrebbero agevolare un percorso di giustizia, ma intanto in Italia sono morte oltre 2500 persone dal 1980 ad oggi. Alcune famiglie hanno ottenuto dei risarcimenti, moltissime invece piangono o piangeranno familiari. Questa è la nostra prima puntata. Io dico grazie a Luca Lucente, che ci ha allietato, devo veramente usare questo verbo, con la sua presenza. Grazie. Dico grazie in regia a Peter Bescapè, in studio Laura Faggin, e ovviamente proseguiremo nei prossimi giorni con approfondimenti, ascoltando altre voci, voci diverse. Vedremo se avranno la stessa forza, lo stesso coraggio e la stessa onestà intellettuale di Luca Lucente. Da Roberto Galuno una buona giornata.